Besanello era sempre stato più unito, non si espandeva così come il Calviano, no? Dice Calviano, perché anche adesso, per esempio, le persone del Calviano non è così aperte come quelle di Volant, per esempio, o quelle dei Nomi, perché, non so, che resta quella, non so come spiegarle, quell'abitudine forse, della volta, di essere più distaccati, non è quella dell'unione come che negli altri paesi. Besanello, dunque, mi per sentito dire che sta la cantina che è un fallimento e lì quasi tutte le famiglie le era socie della cantina e molti a dover vendere campagna, molti erano indebitati finché basta, le era anni magre, insomma, fra il resto. E in quegli anni lì molti uomini e nadi a lavorare in Germania perché si era aperto l'emigrazione per la Germania e allora qualcuno si salva la potù pagare i debiti della cantina attraverso questo lavoro che gli ha fatto in Germania. Ma guarda, mi del 47 sono andata a lavorare alla cooperativa come commessa. Dunque del 47 che portava avanti la merce, che era uno col cavallo. L'andava a Roveredo a fare i rifornimenti, che quando cominciai a lavorare, che erano ancora le tessere, no? E dopo comincia a venire. Ecco, lì è stato bello, perché l'ho viste, le banane, non so, per dire quelle cose lì, non se le aveva mai viste.